batte il cor. Spettacolo divin, sognata terra, ecco ti premo alla fin. Terreno fecondo che l'Europa potuta arricchì, spettacolo divin in terra abito io son un mondo. Tu mi appartieni a me, tu mi appartieni a me. Oh, nuovo mondo, tu mi appartieni a me, a me.